GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Arriva la proroga delle concessioni balneari in Italia fino a settembre 2027. Le gare devono essere avviate entro giugno dello stesso anno. Lo prevede il decreto varato ieri dal governo, un modo per evitare la procedura di infrazione europea. La situazione e i riflessi nelle spiagge del Friuli Venezia Giulia. Oltre 30 milioni messi a disposizione dal governo per il progetto della traversa sul Tagliamento, risorse che serviranno alla messa in sicurezza del fiume e del bacino idrografico, che da tempo presenta gravi criticità per il territorio e la popolazione. La reazione dei sindaci interessati. La Protezione Civile ha messo allerta meteo di colore giallo su tutta la regione fino alle 6 del mattino di domani per possibili temporali forti, specie su pianura e costa. Dopo tanti giorni di canicola, temperature previste in netto calo. Era originario di Pordenone ma residente a Maser in Veneto, Francesco Favilli, 44 anni, uno dei due escursionisti morti dopo essere precipitati ieri dalla parete sud della Marmolada, dove stavano scalando la via Don Chisciotte. Nel pomeriggio a Udine, assemblea di tutto il personale della dirigenza medica e sanitaria di ASUF. Tra le tematiche, la grave carenza di personale dirigente medico e sanitario, la mancata valorizzazione economica e professionale, i fondi contrattuali. Questa mattina la prova di ammissione ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie all'Università di Trieste, un centinaio di candidati iscritti con almeno un aumento del 26% rispetto allo scorso anno. Qual è lo stato di salute attuale dei ghiacciai e delle Alpi Giulie e quali cambiamenti negli ecosistemi in alta quota? A fornire un quadro di sintesi, un bilancio, si è tenuta a Udine la presentazione di Carovana dei Ghiacciai 2024, campagna nazionale di Legambiente. Paralimpiadi di Parigi, tocca oggi a Giada Rossi e Matteo Parenzan nelle semifinali del tennis tavolo, impegnati nella prova in linea dell'handbike anche Katia Ehre e Federico Mestroni. Le 12:32 minuti in questo istante, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz e Andrea Saule, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 5 settembre. Arriva dunque la proroga delle concessioni balneari in Italia fino a settembre 2027. Le gare devono essere avviate entro il giugno dello stesso anno. A prevederlo è il decreto varato ieri dal governo. Un modo per evitare la procedura di infrazione europea che graverebbe altrimenti sui cittadini. Sentiamo cosa cambia, in particolare per le spiagge della regione. Il governo ha approvato la riforma delle concessioni balneari. I punti principali sono l'estensione delle attuali concessioni fino al settembre del 2027, l'obbligo di avviare nuove gare entro il giugno dello stesso anno, mentre la durata delle nuove concessioni potrà variare da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni. È previsto l'indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante, pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all'equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni. Ma quali saranno le ricadute nel Friuli Venezia Giulia? È un bel problema, ci ha detto l'assessore regionale Sebastiano Callari. Invitando comunque ad una lettura attenta della norma, Callari sottolinea che il governo ha concordato il decreto con l'Unione Europea. Secondo Callari, il decreto porterà comunque ordine nella materia, ma che però ci saranno certamente anche nuovi contenziosi. La regione valuterà se e come adeguare le proprie linee guida, ma nulla sembra minacciare la validità delle gare già concluse. I comuni di Grado e Lignano, che hanno pubblicato dei bandi per l'assegnazione delle concessioni, probabilmente dovranno sospenderli per autotutelarsi. Si dichiara deluso invece Salvatore Sapienza del sindacato italiano balneari, che aderisce alla FIPE Confcommercio. Il rappresentante dei concessionari giudica il decreto deludente ed inferiore alle aspettative e alle promesse fatte dal governo. Sapienza rimarca che non c'è nulla sul valore reale delle aziende, si parla solo della stima degli investimenti non ammortizzati negli ultimi 5 anni. La regione, ha detto Sapienza, fino ad ora ha fatto cose inutili perché la competenza sul demanio è dello Stato. L'unica cosa concreta che la regione poteva fare era intervenire sul PUD, il piano di utilizzo del demanio, cosa che però non è stata fatta. Walter Scherck, TGR Friuli Venezia Giulia. Oltre 30 milioni messi a disposizione dal governo per il progetto della traversa sul Tagliamento. Le risorse serviranno alla messa in sicurezza del fiume e del bacino idrografico storicamente problematico per il territorio. Arrivano le reazioni dei sindaci interessati. Arrivano le risorse, almeno una parte, ma resta il nodo del progetto. È infatti pronto il decreto che destina oltre 30 milioni di euro al Friuli Venezia Giulia contro il rischio idrogeologico e per la messa in sicurezza del tagliamento. Risorse che potranno essere impiegate anche per la traversa di Dignano, che servirebbe a contenere e laminare le piene del fiume, ma che resta un'ipotesi controversa. I comuni di Spilimbergo e Dignano hanno approvato nello scorso mese di luglio un ordine del giorno che ribadisce la netta contrarietà all'ipotesi di progetto relativa alla costruzione di una traversa laminante con luci mobili a paratoie piane adiacente al ponte di Dignano. Il progetto è quello contenuto nella delibera 530 del 2024 ed è oggi l'unico conosciuto, si sottolinea nel documento. I consigli comunali hanno chiesto anche all'amministrazione regionale l'immediato coinvolgimento dei comuni interessati in tutti i livelli di approfondimento progettuale. Fondamentale è la salvaguardia delle vite umane, sottolinea il sindaco di Spilimbergo Enrico Sarcinelli. Discutiamo insieme sul come, nel rispetto dell'efficacia, dell'efficienza e del fiume. Quanto al coinvolgimento dei comuni, si svolgerà probabilmente nella seconda metà di ottobre un'audizione in quarta commissione consiliare, alla quale prenderanno parte i sindaci e tutti gli attori istituzionali coinvolti, dal vice ministro all'ambiente Vannia Gava al presidente della regione Massimiliano Fedriga, nel suo ruolo di commissario delegato per il rischio idrogeologico. Altro appuntamento decisivo nei prossimi mesi sarà l'incontro con la soprintendenza, che dovrà esprimersi sul vincolo relativo al vecchio ponte di Dignano. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora le condizioni del meteo, il tempo sta cambiando, il cielo è coperto su tutta la regione, in alcune zone già comincia a piovere, le temperature registrate alle 11 a Trieste 28 gradi e 5 decimi, il mare poco mosso con temperatura di 28 gradi e 5 decimi, a Gorizia 29 gradi, a Udine 26, a Pordenone 23 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 20 gradi, a Tarvisio 19 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 18, a Sappada 17 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 16 gradi. Sul Monte Lussari 15 gradi, sul Monte Zoncolan 13 e mezzo, passando alla costa Grado 27 gradi, a Lignano 24, la temperatura del mare in entrambe le località costiere è di 26 gradi e mezzo. Una saccatura atlantica determina il passaggio sul nord Italia di un fronte temporalesco accompagnato da un flusso di correnti umide da sud. Dal pomeriggio fino alle prime ore di domani saranno probabili rovesci temporali diffusi con piogge localmente intense. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo di colore giallo su tutta la regione in vigore da mezzogiorno alle 6 del mattino di domani per possibili temporali forti, specie su pianura e costa con le temperature in calo. E mentre su costa e pianura, macchia di leopardo, come detto, stanno cadendo le prime gocce di pioggia, a Moggio Udinese si sta ancora lavorando per tenere sotto controllo il fronte dell'incendio. Questa mattina, presto, dopo ore di inattività dei mezzi aerei, le fiamme avevano ripreso vigore sul fianco occidentale del monte in quota, dove si sono concentrati i lanci d'acqua dei tre elicotteri della Protezione Civile regionale, dei due Canadair dei Vigili del Fuoco, da scongiurare l'estensione del rogo sul versante delle piccole frazioni. Lavoro che ha dato i suoi frutti. In tarda mattinata i fronti del fuoco erano stati messi sotto controllo. Rimane il presidio di una decina di forestali e altrettanti volontari che assicurano i rifornimenti d'acqua nei vasconi per gli elicotteri, vasconi allestiti in ogni frazione per eventuali emergenze. E ora, per chiudere definitivamente questo rogo, si aspetta appunto la pioggia, che dovrebbe arrivare copiosa nel pomeriggio e anche domani. Ne serviranno comunque parecchi millimetri per inumidire il sottobosco riarso ed estinguere le braci nelle ceppaie. Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata 25 minuti dopo la mezzanotte tra le province di Udine e di Pordenone. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro a 5 km da Tramonti di Sopra e a 6 da Socchieve e Preone. L'ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose. Era originario di Pordenone, ma residente a Maser, in Veneto, Francesco Favilli, 44 anni, uno dei due escursionisti morti dopo essere precipitati ieri dalla parete sud della Marmolada, dove stavano scalando la via Don Chisciotte. Entrambi lavoravano come dirigenti dell'azienda Scarpa di Asolo, in particolare Favilli nel settore del marketing. L'allarme è stato dato dalla moglie di una delle vittime, che non avendoli più visti rientrare ha chiamato il numero unico di emergenza. Da Belluno è decollato un mezzo di soccorso che si è diretto subito su ghiaioni alla base della parete, rinvenendo purtroppo i corpi già senza vita. Dalle prime informazioni, due alpinisti partiti da rifugio Falier per attaccare la via potrebbero essere precipitati già sui primi tiri. arrestato un cittadino rumeno considerato responsabile principale della gestione di un deposito illegale di tabacchi scoperto ad Aviano all'indirizzo di quest'anno dalla guardia, all'indirizzo di quest'ultimo dalla Guardia di Finanza. A inizio anno le fiamme gialle del capoluogo della destra tagliamento avevano fermato e arrestato un autotrasportatore moldavo nel cui mezzo era stato trovato un quintale di tabacco, un gran quantitativo di materiale vario, filtri, imballaggi, cartine, necessario per il confezionamento di pacchetti di sigarette di noti marchi esteri. Le conseguenti indagini hanno permesso ai finanzieri di ricostruire la filiera commerciale del tabacco sequestrato, individuando in due cittadini rumeni appunto i responsabili del sodalizio criminale che in Italia ne gestiva l'importazione, il confezionamento e la successiva commercializzazione. Due, le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla procura di Pordenone, di cui, come detto, una è stata portata a termine dalla polizia rumena nei giorni scorsi. Si terrà questo pomeriggio all'ospedale di Udine l'assemblea di tutto il personale della dirigenza medica e sanitaria di ASUFC. Tra le tematiche trattate, l'attuale grave carenza di personale dirigente medico e sanitario, la mancata valorizzazione economica e professionale, i fondi contrattuali di perequazione ed ex RAR. Sentiamo. Ad oggi nell'azienda sanitaria Friuli Centrale, la più grande della regione, mancano all'appello quasi un centinaio di dirigenti medici e sanitari, la più grave carenza riscontrata a livello regionale, denunciano UILA, NAO e CGL. Nel pomeriggio i sindacati si confronteranno in assemblea con la dirigenza medica e sanitaria di ASUFC sulla pesante situazione che sta attraversando il personale ridotto all'osso e allo stremo, sempre più numeroso fugge nel privato, rimarca il segretario generale della UILA FPL Bressan, che richiama la necessità di maggiori risorse economiche e migliori condizioni di lavoro per fermare l'emorragia. La direzione aziendale ad oggi non ha dato alcun riscontro sui 3 milioni di euro di ex risorse aggiuntive regionali tagliati alla dirigenza medica, rileva ancora Bressan. Non c'è di conseguenza neanche la garanzia del pagamento di tutte le eccedenze orarie che già si stanno accumulando quest'anno, rilancia il segretario regionale di ANAO Tosto, per il quale occorre diventare più attrattivi per trattenere chi già c'è e far arrivare nuove forze. Si aprono gli ambulatori di sabato e festivi, ma con quali medici e con quali soldi? Chiosa infine il segretario regionale della CGLFP. I sindacati richiamano anche la piaga delle aggressioni ai sanitari, divenuta ormai una costante, e si dicono pronti a iniziative di mobilitazione sulla scia di quelle già messe in campo per gli stessi problemi a Pordenone, Monfalcone e Trieste. Prendo atto e mi stupisco che questi proclami non siano stati preceduti da alcuna richiesta di incontro alla direzione aziendale, come previsto dalle normali relazioni sindacali controbatte il direttore generale dell'azienda sanitaria udinese, Caporale, rimarcando di essersi sempre seduto ai tavoli coi sindacati. Sulla carenza di personale, Caporale si dichiara consapevole delle difficoltà a reperirne, ma ricorda i numerosi concorsi avviati quest'anno che hanno recuperato delle unità, e sul fronte risorse la ex RAR dice sono una partita regionale. Caporale rammenta però che ai dirigenti medici e sanitari si è riconosciuto lo sforzo importante con l'accordo siglato tempo fa in anticipo rispetto agli altri anni, che ha portato a un'importante distribuzione di risorse aggiuntive. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. È cominciata questa mattina la prova di ammissione ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie all'Università di Trieste presso il campus di Piazzale Europa. Sono 739 i candidati iscritti, segnando un aumento del 26% rispetto allo scorso anno, e quest'anno i corsi di laurea offerti diventano 10 con la nuova aggiunta di dietistica a Pordenone. I posti disponibili totali sono 500, distribuiti tra i vari corsi. Volti giovani e concentrati, tante le ragazze, rappresentano il 73% dei 739 candidati ai corsi di laurea in professioni sanitarie all'Università di Trieste. Il concorso è nazionale, dura 100 minuti, si svolge in contemporanea in tutta Italia. A Udine i candidati sono 517. A Trieste i posti disponibili in tutte le discipline sanitarie sono 500, sono aumentati negli ultimi anni, specie in scienze infermieristiche, che ha raddoppiato i posti in 4 anni. Si è passati da 100 posti pre-Covid agli attuali 200, eppure tra i ragazzi in aula pochi sembrano mettere scienze infermieristiche come prima scelta. Quando però sognano questa professione, i giovani sembrano metterci passione e lo spiegano il perché. L'esame è per tutte le discipline lo stesso, ci sono 3 opzioni in ordine di preferenza, spesso la prima scelta è fisioterapia, specie tra i maschi, gettonata anche logopedia. E se a livello nazionale i candidati ai corsi di laurea in materie sanitarie sono scesi del 5,3%, in Friuli Venezia Giulia si registra un più 7,2%, la regione con il dato più positivo trainato dall'Università di Trieste, che conta più 26% di candidati, più 48% da fuori regione. E professor Fabrizio Zanconati, docente di anatomia patologica, Trieste attrae? Attrae molto, sia come città per la sua multiculturalità sui parchi scientifici. È un'università che ha radicato sia nella facoltà di medicina che ovviamente anche nelle professioni sanitarie un'esperienza molto importante, grazie anche a tirocini professionalizzanti che i corsi di laurea delle professioni sanitarie possono vantare. Un terzo dell'attività didattica è rivolta proprio all'attività pratica. Questo permette di poter lavorare da subito e potersi iscrivere agli albi professionali. Aspiranti infermieri però pochi. È una professione molto impegnativa che però permette ampi sbocchi, perché permette l'iscrizione alle scuole di specializzazione che sono state attivate, permette percorsi di master e di alta specializzazione, quindi sicuramente è una professione che poi man mano ci entra dentro, ci si appassiona molto. Trieste, Navita Diani, TGR Friuli Venezia Giulia. Lutto nel mondo della medicina regionale. Si è spento ieri a Udine all'età di 93 anni Pietro Commessatti, luminare dell'ortopedia. Tra gli incarichi ricoperti nella lunga carriera, quello di primario tra i più giovani in Italia all'ospedale di Palmanova e poi al Gervasutta. Aveva iniziato la propria carriera nel 58 per proseguirla fino al 98. Tra i suoi più illustri pazienti il calciatore Zico e il motociclista Edi Orioli. Fu tra i fondatori a Milano dell'AOI, Associazione di Osteosintesi Italiana, presidente per 20 anni della sezione italiana degli ortopedici dell'Alpe Adria, oltre che consulente dell'ospedale militare. Fu anche protagonista della scena politica, accettando la candidatura a sindaco di Udine, arrivando al ballottaggio con Sergio Ceccotti. I funerali di Pietro Commessatti si svolgeranno sabato 7 settembre alle 15 nella chiesa di Carpacco, suo paese natale. Vertenza ex Ipobank, nuovo incontro tra le organizzazioni sindacali e l'azienda all'interno della procedura di riorganizzazione aperta da Aquileia Capital Service lo scorso 8 agosto. I sindacati hanno fortemente contestato l'operazione, che prevede un drastico ridimensionamento del personale, non per una riduzione dell'attività, ma per la sua assegnazione ad altre società. Un nuovo incontro tra le parti è stato programmato. Qual è lo stato di salute attuale dei ghiacciai delle Alpi Giulie e quali i cambiamenti dei ghiacciai degli ecosistemi in alta quota? A fornire un quadro di sintesi e un bilancio si è tenuta a Udine la presentazione di Carovana dei Ghiacciai 2024, la campagna nazionale di Legambiente. Sopravvivono con fatica gli ultimi 3 ghiacciai delle Alpi Giulie, quelli del Canin, del Triglav e del Montasio. A scattare la fotografia delle Alpi Giulie sia sulla parte nord-occidentale della Slovenia che su quella nord-orientale dell'Italia è la quinta tappa in Friuli Venezia Giulia Slovenia della Carovana dei Ghiacciai 2024, la campagna nazionale di Legambiente in collaborazione con Cipra Italia e con la partnership scientifica del Comitato Glaciologico Italiano. Secondo Walter Maggi, presidente del Comitato Glaciologico e professore all'Università Milano Bicocca, i ghiacciai delle Alpi Giulia sono ormai classificabili come ghiacciaio nevati e rappresentano una prova diretta del cambiamento climatico. Nessun futuro per i ghiacciai del Canin e del Triglav, mentre quello del Montasio sopravvive ritiratosi in una posizione meno esposta. Nonostante nevicate a volte intense, le temperature estive sono ancora troppo elevate per il mantenimento dei nostri ghiacciai. Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente di Cipra Italia, ha sottolineato il forte legame tra biodiversità e ghiacciai, un argomento di grande importanza ma spesso trascurato. Legambiente ha lanciato una roadmap con 5 azioni per garantire una maggiore tutela della biodiversità in alta quota, invitando a firmare la petizione online Una firma per i ghiacciai, per chiedere al governo azioni concrete basate sugli interventi indicati dal manifesto per una governance dei ghiacciai per salvare l'ecosistema. Udine, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alle Paralimpiadi di Parigi, di scena oggi altri atleti regionali, e di pochi secondi fa la notizia della vittoria della friulana Giada Rossi nella semifinale del tennis tavolo contro la polacca Dorota Buklav. Primo set vinto da Rossi per 12-10, secondo anche il secondo per 11-6, poi terzo e quarto set ad appannaggio della polacca per 11-8 e 11-6, e Giada Rossi ha conquistato la finale del torneo vincendo l'ultimo e quinto set decisivo con il punteggio di 11-6. Alle 14 il triestino Matteo Parenzan affronterà sempre in semifinale del tennis tavolo lo statunitense Seidenfeld. Nell'handbike la swilimberghese Katia Aere partirà tra poco alle 13 per la prova in linea. In campo maschile Federico Mestroni di Rodiano sarà invece in gara alle 16.05. Il basket convincente amichevole per la Pallacanestro Trieste, che a Monfalcone batte 91-84 Treviso nell'unica partita di prestagione che giocherà in regione. Bene i nuovi arrivi Utoff e Brown, miglior marcatore biancorosso però Candussi con 19 punti. Nonostante il gran caldo, la squadra di Cristian ha giocato ad alti ritmi, anche se chiaramente in vista del debutto ufficiale del 29 settembre contro Milano ci sono aspetti da migliorare, lo spiega Mike Arcieri, GM, al nostro microfono. La squadra sembra già a buon punto dal punto di vista atletico, ma anche della chimica. Sì, una cosa che abbiamo visto in queste due partite, ma siamo all'inizio, ma sicuramente si vede la voglia di condividere la palla, l'attacco, allora è sicuramente un segno molto positivo. Tanto caldo, la squadra però ha reagito molto bene anche dal punto di vista atletico. Sì, infatti tutti erano sono venuti in Italia in buona condizione, hanno lavorato sempre durante l'estate, allora una cosa importante ovviamente, specialmente in questo calore. Cosa dobbiamo aspettarci per queste ultime settimane prima dell'inizio del campionato, con tanti tornei e tanti amichevoli ancora importanti? Sì, siamo all'inizio, allora abbiamo giocato abbastanza bene, per esempio in difesa in qualche quarti, però all'inizio invece no, allora consistenza anche tirando meglio in tutti i rispetti. Siamo all'inizio, allora c'è sempre una crescita che ci vuole. E nel calcio, fermo il campionato di Serie A per gli impegni della nazionale, oggi l'Udinese giocherà in amichevole a porte chiuse a Decani contro il Koper. Sarà l'occasione per mister Ugnaici di provare i nuovi acquisti appena arrivati come Attature e Rui Modesto, inizio alle 18. Ciclismo, il forlivese Matteo Malucelli ha vinto in volata la prima tappa del 60° giro ciclistico della regione Friuli Venezia Giulia, riservata alle categorie Elite Under 23, 177 km da Palazzolo dello Stella a San Giorgio di Nogaro. Sul traguardo di San Giorgio ha preceduto Simone Buda e Thomas Capra, diventando il primo leader della classifica generale in maglia gialla. Oggi seconda tappa da Ampezzo a Sauris, conclusione sabato 7 a Gorizia. Si chiama Vola in alto con lo sport. Oggi allo stadio Teghil di Lignano i giovani della Lupignanum Track and Field e delle altre principali realtà sportive della regione, come la Nuova Atletica Friuli, incontrano i campioni giamaicani della velocità che a Lignano Pineta fanno stanza per la stagione ormai da 18 anni. Tra loro Kishane Thompson, argento nei 100 metri a Parigi e testimonia del meeting Sport e Solidarietà dello scorso 14 luglio. Giornata di festa al Recreatorio Totti di Trieste in occasione della serata finale di PGTS Summer del Polo Giovani. All'evento parteciperà anche la campionessa italiana di breakdance Amtilai Sandrini, reduce dalla partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi. Sandrini sarà premiata anche nel primo pomeriggio in comune dal vice sindaco Serena Tonel. A Nicoletta Flora, responsabile di struttura del comune per giovani e pari opportunità, abbiamo chiesto come è stata organizzata la serata e la festa. Quest'anno le attività sono andate tutte molto bene. Questa sera ci sarà la chiusura del Festival PGT Summer 2024, con cui quest'anno, in particolar modo, abbiamo dato spazio ai giovani della città per esprimersi nelle forme di vario genere, artistiche, sportive e altre. E la serata si inserisce all'interno di tutte le politiche giovanili del Comune di Trieste, attraverso le quali questa amministrazione organizza progetti, eventi di opportunità e di incontro e di aggregazione per favorire la socialità e dare strumenti di crescita professionale. Quest'anno è interessante perché questa serata finale, oltre ai gruppi accreditati che ci allieteranno con musica, ballo, recitazione, sport, ci saranno anche due ospiti d'eccezione, cioè l'atleta nazionale di breaking di ritorno dalle Olimpiadi di Parigi, Antilai Sandrini, e il campione nazionale di pugilato pesi medi, Luca Chiancone, che faranno un'esibizione. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza fino ad esaurimento posti. Nello specifico avremo Trieste Folk, che inizia facendo balli folk. Poi avremo, speriamo, se il tempo lo permette, le finali del torneo di basket, una breve rappresentazione teatrale ironica, tre gruppi musicali con alternative rock, un tributo ai Queen, un tributo ai Led Zeppelin e musica pop. E poi avremo nel clou della serata appunto i Breakers con Antilai Sandrini e Luca Chiancone, che diranno due parole e faranno un'esibizione. Se dovesse piovere salteranno le finali del torneo di basket, ma siccome abbiamo anche il teatro, le attività verranno svolte all'interno del teatro. A fronte delle pessime condizioni meteo previste per questa sera e dell'allerta meteo diramata, come abbiamo sentito, dalla Protezione Civile, il concerto per la pace di Remo Anzovino, previsto in piazza Patriarcato ad Aquileia, sarà recuperato il 20 settembre in piazza Capitolo. In seguito a questo spostamento, per partecipare alla nuova data, è sempre ingresso gratuito, bisogna effettuare una nuova prenotazione sul sito Eventbrite.it. Alle 20.30 al Politeama Rossetti di Trieste, questa sera nel cuore dell'Europa, verso Go 2025, il concerto che inaugura le stagioni del circuito organizzato dall'ente regionale teatrale insieme al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Sul palco sarà protagonista la violinista Anna Tifu insieme alla Nord-Est Sinfonia Orchestra, diretta dal maestro Marco Feruglio, con un programma interamente dedicato alla musica francese. Inaugura alle 18.30 in Piazza Unità il Festival Music Center, la sede nevralgica del Festival di Trieste, il faro della musica, luogo dove raccogliere informazioni sulla rassegna culturale organizzata dalla Società dei Concerti in coorganizzazione con il Comune di Trieste, che aprirà ufficialmente il programma sabato 7 settembre al Teatro Verdi di Trieste alle 20.30 con un grande interprete della musica come Alexander Melnikov. Dopo aver seguito conflitti in mezzo mondo, aver visto da vicino gli effetti della guerra ed essersi interrogato sulle loro dinamiche, il giornalista Toni Capuozzo sarà lignano a presentare il suo libro Cos'è la guerra, gli incontri con l'autore e con il vino, appuntamento alle 18.30 al Pallapinetta nel Parco del Mare. Alle 20.30 nell'ambito del festival Una Terra in Scena, teatro in casa, San Martino al Tagliamento, località Poston Cicco, la compagnia di arti e mestieri renderà omaggio allo scrittore scomparso nel 2023 Guerino Ermacora, autore del libro Terra di Uomini, da cui è tratto lo spettacolo Orsola 1350 di e con Bruna Braidotti, che andrà in scena per ricordarlo nel cortile di Casa Serafin, Passaggi d'Arte. Lo spettacolo traspone in rima e racconto la trama del romanzo sulle vicende del patriarcato di Aquileia. Alle 18 la Lega Navale di Trieste Sailing Quantum Tour con Paola Verrucchi. La velista racconterà della sua navigazione in solitaria per 2200 miglia e di come le è stata utile nella sua impresa la fisica quantistica, di cui è divulgatrice. E infine allo spazio Fogarte di Via Lazzaretto Vecchio a Trieste, Sara Alzetta presenta alle 19.30 Parole e Città. Ed è tutto, prossimo GR alle 18.40 al termine della radiocronaca della partita di calcio Italia-San Marino Under 21. La rubrica Incontri con la Bibbia viene quindi rinviata domani, venerdì. A redigere questo notiziario Giorgio Bearz e Andrea Saule, collaborazione tecnica di Carlo Morello, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.